stamattina era pressa poco innocente. È stato ucciso dai cinici peggiori venditori di niente. Il corpo per terra non avrà avuto neanche 20 anni. Disciolto, inghiottito, ammazzato prima di fare altri danni. Benvenuti nell'era globale della normalizzazione. Qua giù il futuro te lo vendono a rate da televisione. O negli scaffali di autogrill sospesi nel nulla. Su scontrini che scoloriscono col passare dei minuti. E in città ti ricordo il traffico coi mitragliatori. Le loro facce sono fatte di gomma, amianto e cemento. Si muovono in branco alla ricerca della diversità. Poi la calcano su camion neri e la portano via. Le mie notti sono bianche di luce, non c'è altro da fare. Mi giro e mi rigiro nel letto senza vederne la fine. Alzati, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. E un satellite per migliore amico non mi lascia mai solo. E un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo. I cingoli dei mensi pubblici del nuovo millennio si fanno strada nelle vie del centro senza memoria. E sabato faremo acquisti col passo dell'oca. Un prestito e avremo anche noi la nostra croce uncinata. E niente, nessuno mai più ci potrà giudicare, perché bruciare la gente è diventata una cosa normale. Il cuore, le stanze segrete scavate nel petto, la resa, i tuoi occhi incantati ogni giorno più spenti. Gli addetti ai servizi mi parlano di promozione. Hanno mani unte di debiti e parole pulite. Mi ricordo di te che suonavi, che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.